Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Luca Rizzato. Oggi un appuntamento molto importante in occasione del 50° anniversario delle Frecce Tricolori, la nostra straordinaria pattuglia acrobatica nazionale. De Agostini ha pubblicato uno spettacolare volume fotografico intitolato Frecce Tricolori, un volo lungo 50 anni. L'autore di questo volume è Davide Cenciotti, giornalista, pilota, esperto di aeronautica, che è collegato con noi. Ciao David, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, tutto a posto. Allora, precisiamo subito che il tuo volume è la pubblicazione ufficiale autorizzata dall'Aeronautica Militare Italiana per i 50 anni delle Frecce Tricolori. Esatto, è proprio così. Si tratta di un volume fotografico, ma non solo, che esce appunto in occasione di questo importante avvenimento che è la 50ª stagione acrobatica delle Frecce Tricolori, del 313° gruppo addestramento acrobatico dell'Aeronautica Militare, ed è una pubblicazione che è stata fortemente voluta dal sottoscritto, dall'Aeronautica Militare, da De Agostini, che ha sposato completamente il progetto, mettendo poi a disposizione la propria forza di fuoco per la realizzazione di un volume dal formato sicuramente particolare, che in qualche maniera ci ha permesso di valorizzare sia l'aspetto fotografico, perché le Frecce dei Colori ovviamente meritavano una visione quanto più possibile dall'interno della pattuglia, sia tutta una serie di dettagli che abbiamo potuto esplicitare a favore non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche dei semplici curiosi appassionati di aviazione. Infatti il volume è enorme, ha delle foto veramente mozzafiato, io lo dico anche da appassionato, dove si ha l'impressione di essere catapultati all'interno proprio dell'abitacolo di uno dei 10 velivoli delle Frecce. Esattamente, abbiamo da questo punto di vista nulla è stato lasciato al caso, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare gli scatti non soltanto del sottoscritto, ma anche dell'Aeronautica Militare, delle Frecce Tricolori e di alcuni dei più famosi fotografi di aviazione del mondo, tra cui uno in particolare che è Katsuhiko Tokunaga, un giapponese che è comunque probabilmente il più famoso e bravo fotografo di aviazione del mondo. Tutto questo per, come hai detto benissimo tu, per catapultare il lettore all'interno della formazione negli assetti di volo più inusuali, diciamo. Quindi non solamente fotografie bellissime, ma questa pubblicazione colpisce perché vengono svelati al lettore molti segreti di questo glorioso reparto, per esempio proprio il vero e proprio backstage, il dietro le quinte delle Frecce Tricolori. Esattamente, ho voluto in qualche maniera dare visibilità non soltanto a quei 25 minuti che poi rappresentano, è vero, la parte più emozionante dell'esibizione delle Frecce Tricolori, che è appunto il display in volo, quello che gli appassionati possono vedere durante le manifestazioni aeree, ma anche tutto quello che c'è dietro, la macchina organizzativa che permette di raggiungere questi importantissimi risultati, che sono appunto la perfezione nell'esecuzione delle manovre, il timing perfetto, quindi la sincronizzazione tra i vari velivoli della formazione, partendo quindi da lontano, da quella che è la selezione dei nuovi piloti che entrano a far parte della pattuglia acrobatica nazionale, all'addestramento, all'inserimento nelle varie posizioni, ai ruoli all'interno della stessa, in qualche maniera svelare tutti i segreti della pattuglia acrobatica nazionale per permettere appunto a appassionati e curiosi di sapere esattamente da dove deriva questa importantissima eredità di cui le Frecce Tricolori sono in qualche maniera il testimonial più importante, perché le Frecce Tricolori, come sappiamo, è vero, compiono, diciamo, il 50° anniversario, ma hanno una storia che risale, diciamo, una lunga tradizione portano avanti, che è quella dell'aeronautica militare nell'aviazione collettiva, che risale addirittura alla fine degli anni 20. Senti David, che tipo di lavoro certosino, se me lo puoi raccontare brevemente, hai dovuto fare proprio per la stesura di questo volume Frecce Tricolori, un volo lungo 50 anni? Ma innanzitutto parte tutto da una visita che io ho potuto fare nel 2006 a Rivolto e a un volo che ho effettuato con le Frecce Tricolori, un'esperienza di 2 giorni nella base che mi ha permesso di apprezzare questo importantissimo reparto dal suo interno, e questo è stato sicuramente il momento principale, l'inizio di tutta l'opera. Poi ovviamente c'è stata tutta una serie di attività successive interviste, quindi fatte sia in loco ma anche nella fase successiva, in tutto questo periodo poi che va da questa visita che è avvenuta appunto 4 anni fa fino praticamente a luglio, conoscenza, di approfondimento con tutti i membri passati, perché ovviamente poi in questo periodo c'è stato anche il normale turnover che interessa tutti i reparti della Forza Armata, tra cui le Frecce Tricolori, quindi in base a questo avvicendamento ho conosciuto praticamente quasi tutti gli equipaggi delle Frecce Tricolori, e successivamente c'è stata una fase molto lunga, molto bella da un certo punto di vista, ma anche molto faticosa, che è stata quella di scegliere gli scatti da inserire nel libro, perché il libro è vero che ha centinaia di foto, alcune di dimensioni extra large, perché poi il formato aperto del libro è di 88 cm per 30 all'incirca, quindi è un formato molto importante, però ovviamente abbiamo dovuto selezionare le immagini, e l'abbiamo fatto in un archivio di 20.000 fotografie circa, e quasi tutte molto belle o quantomeno da un punto di vista storico molto significative. Quindi questo è stato il lavoro in buona sostanza. Senti, ti ricordi la prima volta che hai ammirato in volo le Frecce? Ma io la prima volta, io sono di Roma, quindi diciamo ho la fortuna di vederle quantomeno sorvolare l'altare della patria durante uno dei sorvoli istituzionali che viene fatto il 2 giugno o il 4 novembre, quindi ero molto piccolo. Posso dire che la prima volta che ho visto un'esibizione intera, quindi una vera e propria manifestazione aerea a cui hanno partecipato le Frecce Tricolore, che è stato sul lungomare di Ostia, è stata sicuramente una delle cose più affascinanti e sicuramente più emozionanti per un giovane all'epoca appassionato di aviazione. Senti, il volo che invece hai potuto realizzare con loro, immagino che sia stata la realizzazione di un sogno, no? Sì, è stata sicuramente una delle esperienze più significative che ho fatto nella mia carriera giornalistica, è stata sicuramente l'occasione di toccare con mano tutto quello che è la preparazione di una missione di volo acrobatico e l'esecuzione di alcune delle manovre più significative che vengono eseguite dalla pattuglia acrobatica nazionale, tra cui il famoso Lomchevac, questa rotazione sui tre assi del velivolo che l'MB339 è l'unico velivolo a getto a poter eseguire in piena sicurezza, consegnando questo, come tanti altri primati, alle Frecce Tricolori. Qual è la manovra tra le tante delle Frecce che ti piace di più? Ma sicuramente quella che mi entusiasma di più, perché unisce la spettacolarità della manovra alla complessità tecnica, è la bomba, perché la formazione si divide in 9 elementi, quindi tutti i velivoli si separano per poi rincontrarsi dopo pochi secondi sul campo, quindi sull'aeroporto, a quote differenti, però incrociandosi praticamente sullo stesso punto, che anche questo rappresenta un primato, perché soltanto le Frecce Tricolori riescono a realizzare questo di manovra. Anche altre pattuglie acrobatiche fanno qualcosa di simile, ma non riescono a rincrociarsi e poi ricongiungere la formazione nelle stesse tempistiche che riescono ai piloti delle Frecce. Senti, nessun malore durante il volo? No, per fortuna no, perché comunque diciamo ho avuto appunto nella mia carriera giornalistica anche altre esperienze di volo su aviogetto, quindi diciamo ero abbastanza preparato, non era il primo volo, quindi okay. È stata tosta da un punto di vista fisico, ma per fortuna non ho subito alcun malore. Senti David, le Frecce Tricolori sono un simbolo del nostro paese all'estero, ma anche una punta d'orgoglio tutto italiano. Per te che cosa rappresentano questi 10 velivoli? Ma per me rappresentano appunto i valori più alti sui quali si fonda la nostra patria, quindi ogni volta che vedo il tricolore esteso dai 10 velivoli della pattuglia, per me è un ricordare, un senso di appartenenza e anche un senso di gratitudine nei confronti delle forze armate per quello che fanno per noi nel nostro paese e anche negli scenari nei quali vengono chiamati ad operare quotidianamente. L'Afghanistan è quello più conosciuto, ma non soltanto quello, quindi mi emozionano ancora, io ogni volta che le vedo spesso, ma quel tricolore alla fine della manifestazione o steso su un particolare luogo durante una celebrazione riescono ancora ad emozionare e mi fanno venire la pelle d'oca. Allora, ringrazio veramente di cuore il giornalista e autore David Cenciotti, autore di questo meraviglioso volume fotografico, ma non solo, pieno anche di aneddoti, intitolato Frecce Tricolori, un volo lungo 50 anni che nessun appassionato ovviamente può farne senza, e soprattutto anche a tutti quelli che vogliono saperne veramente qualcosa di più su questo splendido e glorioso reparto dell'Aeronautica Militare. Grazie a David e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Ciao.